Letture di Radio 24. Colm Tóibín, scrittore irlandese di fama, ha pubblicato da poco la raccolta The Empty Family, la famiglia vuota, 9 racconti in cui lo scrittore esalta il piacere della sofferenza e la sua estetizzazione. Lo scrittore irlandese Colm Tóibín, celebre per la sua prosa ritmica e pacata, apparentemente semplice ma in realtà curatissima e senz'altro difficile da imitare, ha appena pubblicato una raccolta di 9 racconti, The Empty Family, La famiglia vuota, Viking, 224 pagine, 17,90 €, di cui ben 7 ci offrono un'infelicità senza via d'uscita, ma sopportata con stoicismo raffinato, mentre gli altri 2 descrivono situazioni che a lungo andare non possono che portare alla stessa fine. Così costante è la sofferenza, così squisita la prosa, che il lettore si trova quasi obbligato a chiedersi quale sia il rapporto tra stile e dolore. Tóibín ci offre degli indizi. Il primo racconto, Silenzio, inizia con la citazione di un aneddoto registrato da Henry James nel suo taccuino come possibile spunto per un racconto. Avendo scoperto, qualche ora dopo la cerimonia nuziale, che sua moglie ha avuto una storia d'amore in passato, un pastore anglicano si rifiuta di consumare il matrimonio, decidendo però di passare comunque la vita con la donna. La crudeltà e la tristezza di questa situazione fanno ancora più effetto sul lettore, proprio perché inespresse. Poi si passa al racconto vero e proprio, che ha come protagonista una figura storica, Lady Gregory, donna irlandese e benestante, che nel 1880 sposò un uomo più vecchio di lei di 35 anni, trovando rispettabilità ma non felicità. Trasferitasi a Londra e partorito un figlio, Lady Gregory cominciò una storia con il poeta William Scawen Blunt, un'altra figura storica che nella versione di Tóibín è più abile come adultero che non come poeta. Non solo sapeva farla godere in modi tanto arditi quanto sorprendenti, ma era anche capace di far sì che non venissero mai scoperti. Con il protrarsi della storia, però, questo talento per la discrezione si rivela meno vantaggioso di quanto non sembrasse all'inizio. Anzi, Lady Gregory soffre proprio perché nessuno sa del loro rapporto. Si trova a vivere i loro momenti insieme come una forma di vuoto o assenza, e quando il rapporto finisce, ha spesso l'impressione che non sia mai esistito. Ecco il grande tema di Tóibín, non solo in questo libro, ma anche in altri suoi romanzi. Come reagire quando invece di una vita intima, una famiglia, una comunità di appartenenza, resta solo un vuoto? Ormai Lady Gregory sente che non c'è nessuna differenza tra la sua vita adesso e gli anni che si protrarranno per l'eternità nella tomba. È però una donna piena di talento e risorse. Scrive un ciclo di sonetti e convince Blunt a pubblicarlo a proprio nome, trovando sollievo nel pensiero che i loro amici possano leggere della sua vicenda senza saperne la fonte. Ma non basta. Ancora angosciata per il silenzio che circonda l'unica passione della sua vita, approfitta di una serata mondana per parlare con Henry James. Raccontargli la verità sarebbe rischioso. Così inventa, con la speranza che lui trasformi in un romanzo, l'aneddoto del pastore anglicano che abbiamo letto all'inizio del racconto. Non è la sua vita, ma l'aridità e la tristezza sono sue. Che Lady Gregory abbia scritto dei sonetti pubblicati a nome di Blunt è un fatto storico. Che sia stata lei a dare a James quest'aneddoto sembrerebbe una geniale invenzione di Tóibín. Comunque sia, ci viene suggerita l'idea che il racconto, o il romanzo, costituisca un mezzo per esprimere quello che non può essere facilmente reso pubblico in altra forma. Mostra rispetto per le regole della società, nascondendo lo scandalo, proprio nel momento in cui cerca una consolazione per il dolore che hanno provocato. Anzi, la creatività che escogita un nuovo scenario, le parole sono di James, così da permettere l'espressione della vita segreta, è direttamente stimolata da queste regole. Inevitabilmente il lettore si chiede se il racconto di Tóibín non sia anch'esso una riformulazione di circostanze ed emozioni che l'autore non vuole rivelare. E ci si potrebbe anche domandare se la soddisfazione procurata da questa espressione estetizzata della propria sofferenza non prolunghi il dolore, diventando funzione importante nella vita della vittima, trasformatasi in artista. Accanto ai titoli dei racconti di questo libro ho annotato i seguenti appunti. La famiglia vuota. l'uomo che anni fa ha perso l'amore, gay, incontra una coppia noiosa, fratello dell'amante e sua moglie. Due donne. Donna che anni fa ha perso l'amore incontra la donna che poi sposò l'amante, ormai morto da tempo. Uno meno uno. Uomo si ricorda il funerale della mamma dove ha rivisto dopo molti anni l'amante gay perso tempo fa. I pescatori di perle. Uomo cena con ex amante gay e sua moglie antipatica, a cui non deve mai dire che il marito è stato suo amante. Mi preme sottolineare che tutti questi racconti sono molto belli, abbastanza diversi nei loro dettagli e sempre scritti in una prosa sublime, eppure è difficile non rimanere perplessi. In tre dei racconti il vuoto provocato dalla perdita dell'amore viene aggravato da un'esperienza di emigrazione e ritorno. Fa sì che il protagonista non si senta a casa da nessuna parte. Invece di un senso di appartenenza, c'è solo un vuoto profondo. Due dei protagonisti sono artisti che usano l'artificialità per costruirsi un rifugio. Tutti e quattro mostrano l'austerità di chi deve difendersi dalle emozioni e anche per questo si presentano come dignitosi o addirittura nobili, mentre le coppie sposate che incontrano sono scialbe, quasi ridicole, senz'altro meschine. I pescatori di perle si conclude con il protagonista che rivendica la superiorità della sua dolorosa ma sensibilissima solitudine ai facili rituali di mutualità e intimità che l'ex amante recita con la moglie. Durante il periodo di lettura di questi 9 racconti, ho assistito a un festival letterario all'Aia, in Olanda, che aveva per tema la letteratura e la globalizzazione, e in cui si parlava della necessità di dare voce alle vittime del terzo mondo, raccontando le loro storie. Qualcuno ha citato con ammirazione il gesto di David Eggers, che ha offerto i suoi servizi di scrittore a chiunque abbia una storia dolorosa da raccontare. Ho poi proseguito a Berlino per un seminario del British Council su letteratura e salute, durante il quale qualche scrittore ha parlato del valore terapeutico della scrittura, mentre altri raccontavano le loro esperienze di insegnamento della scrittura creativa a soggetti svantaggiati, che per la prima volta trovavano parole per descrivere la loro condizione. Dappertutto la sofferenza, quasi fosse il dukkha del buddismo, dalla quale si esce però non allenando la mente a staccarsi dall'appetenza e dall'avversione, ma attraverso una prosa raffinata, estetizzante e con sempre la speranza che questo gesto espressivo sarà seguito dalla pubblicazione e, chissà, forse anche dall'arricchimento e, se Dio vuole, dalla celebrità. Da questo dolore però non bisogna uscire del tutto, sarebbe controproducente. In tutte queste discussioni, come pure nel libro di Toibin, è sottintesa l'idea che sia il dolore a nobilitare, il dolore a essere interessante, il dolore a ispirare la creatività. Chi scrive, scrive per e del dolore, e chi legge è incoraggiato a costruirsi un'autobiografia in cui il dolore abbia un ruolo centrale. Ma non c'è da averne paura. Sull'aereo di ritorno da Berlino rileggo il racconto La famiglia vuota, che dà il titolo alla nuova raccolta di Toibin. Guardando con un telescopio le onde del mare, che immagina come tante persone che lottano piene di consapevolezza e volontà e destino, ma che finiscono tutte nel nulla, il protagonista si dichiara disperato. Deve a tutti i costi scappare, cancellare, dimenticare. Accettare finalmente che le parole per questi colori, per il blu-grigio-verde del mare, per il biancore delle onde, non valgono nulla accanto alla pienezza di questa visione del caos. Adesso percepisce non solo la sofferenza originale, ma la sofferenza dovuta al fatto che l'estetizzazione della sofferenza attraverso le parole non risolve il problema, lo perpetua. Eppure il lettore è sicuro che anche di questa sofferenza parlerà. Anzi, Toibin lo sta già facendo, come l'ha fatto con grande efficacia anche Beckett. Atterrando a Malpensa, mi viene in mente che ci sia qualcosa di profondamente malato in questa attività, che io stesso pratico. Può darsi che quei paesi in altri continenti, felicemente privi di una tradizione di letteratura scritta, abbiano poco da guadagnare da un processo di globalizzazione che un giorno darà loro una voce e alla fine, inevitabilmente, un Nobel. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Toibin, il piacere sta nel soffrire, di Tim Parks, pubblicato dalla Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi.